più chiaro sfavilla, più chiaro sfavilla, più chiaro sfavilla. E perge ogni stilla dell'alba che piange, dell'alba che piange, dell'alba che piange, dell'alba che piange. Il sole dal Gange, già il sole dal Gange, più chiaro sfavilla, più chiaro sfavilla, più chiaro sfavilla. Col raggio dorato, in gemma ogni stelo, in gemma ogni stelo, in gemma ogni stelo. E gli astri del cielo dipinge nel prato, dipinge nel prato, dipinge nel prato, dipinge nel prato. Col raggio dorato, in gemma ogni stelo, in gemma ogni stelo, in gemma ogni stelo.